fa una domanda o devo attaccare a parlare? No, come devi fare? Ma che domande devo fare? Scusa. E allora ritorniamo un attimo in diretta qui dal Media Center. Siccome i vostri simpatici speaker tutta la giornata sono stati chiusi come dei sarcofagi all'interno del Media Center, non hanno in realtà bene idea di quello che è successo. Allora proviamo a farcelo raccontare da tanti piccoli pezzettini che sono tornati indietro dal corteo, mentre la situazione fuori ancora non è abbastanza chiara. E allora chi di voi due vuole cominciare raccontandoci il vostro punto di vista, cioè proprio quello che avete visto voi? Il marasma di informazioni, a volte anche contraddittorie, che sono arrivate, era proprio insomma faceva capire che da ogni punto di vista, soprattutto la corte di fumo e di fumogeni, cioè sì, che insomma ognuno vedeva un po' quello che poteva. Quindi raccontateci voi che avete visto. Esattamente, questa sarà una narrazione corale e ognuno avrà avuto un suo punto di vista particolare, quindi insomma uno può solamente testimoniare con ciò che ha vissuto direttamente. Nel mio caso insomma, ho assistito a una serie di cose mentre continuavamo, abbiamo continuato a riprendere proprio perché la nostra intenzione era quella di riportare con le immagini quello che succedeva. E penso di dire che ci sia stato questo momento di tensione all'angolo, un po' all'angolo di via Merulana, via Labicana, che diciamo sul quale si è messa in moto una dinamica che ha permesso alla polizia di giustificare questa prima carica, almeno di quel versante. Carica è effettuata sempre con questi mezzi, con i gipponi, con questi furgoni, i Iveco, blindati, i Iveco. Anche la Fiat è presa, la Fiat Iveco che fornisce questi mezzi, che giustamente ci si... Il corteo è stato sospinto da via Merulana verso via Le Manzoni, e poi è andata avanti questa pressione. Non so te come te la sei vissuta da quel punto in poi. Guarda, io mi trovavo inizialmente all'incrocio dove sta la metro Manzoni, tra via Labicana e via Le Manzoni, appunto. E lì niente, abbiamo capito che stavano caricando con i blindati della polizia, che poi sono andati avanti a reprimere la gente che si trovava in quel momento su via Emanuele Filiberto, mi pare, davanti al cinema Manzoni. E da quel punto lacrimogeni e cariche, noi ci siamo infilati in una stradina laterale sulla sinistra e guardando dalla parte, siamo risbucati su diciamo San Giovanni dove sta il parco, e guardando a destra c'era veramente il delirio, e cariche dei blindati, idranti che arrivavano da destra e sinistra, e lacrimogeni e nubi tossici ovunque, praticamente non si capiva niente. E quindi niente, siamo rimasti un po' lì cercando di capire come evolveva la situazione, e alla fine siamo tornati risalendo verso Piazza Vittorio, per via Santa Croce in Gerusalemme, e dove tra l'altro abbiamo assistito a una scena di alcuni che sembravano militanti rivelarsi invece della polizia e portare con sé un ragazzo che non so cosa stesse facendo. Io ho visto soltanto che lo portavano di peso, e alla domanda dove lo state portando mi è stato risposto in una questura, e lì ho capito che non erano militanti fondamentalmente. E sì, questa cosa è stata un po' scioccante per me. E niente, quindi siamo risaliti per Piazza Vittorio, dove abbiamo visto che c'era lo spezzone di Rifondazione e quello della FIOM che lo stava raggiungendo da via dello Statuto. E quindi niente, siamo finalmente rientrati qui dove c'è il Media Lab, e tuttora cerchiamo da qualche ora di capire come si sta evolvendo la situazione. Dalle voci che sentiamo c'è il corteo che pure con il TIR, quello di Uniti per l'Alternativa, si è riversato verso Piramide. E insomma stiamo ancora cercando di capire che giro stanno cercando di fare e dove vorrebbero andare. No, infatti sappiamo che in corso si sta muovendo da Piramide un altro gruppo di persone, ancora non abbiamo ben chiara così, la dinamica seguente. Però volevo soffermarmi un po' sulla gestione, su come ha reagito la gente a Piazza San Giovanni, cioè su quello che si è determinato. A parte questa tattica che hanno usato con i gipponi, che oltretutto risale ai Celti, si chiama cerchio cantabrico, questi sorte di caroselli che alla fine riescono a rendere il bersaglio mobile. I Celti lo facevano con i cavalli, loro lo fanno con i gipponi, che sono un po' più pericolosi, anche meno gestibili. E chiaramente il tutto con lancio di lacrimogeni, altezza uomo, eccetera, diverse persone ferite. E gli idranti dove... utilizzando questo grosso mezzo con varie pompe, perché oltre a quelle superiori ne aveva anche laterali praticamente, e questi mezzi sono veramente penetrati all'interno della manifestazione, all'interno di questi gruppi che erano nella strada, anche sfiorando gli altri camion. C'è stato un momento in cui sono risaliti fino alla Scala Santa con questo mezzo, veramente mettendo a repentaglio più di una persona. Sappiamo è stata investita, ma speriamo il conteggio, l'amaro conteggio poi dei feriti lo faremo fra qualche ora. Sappiamo che al San Camillo c'è stata una denuncia da parte dei medici che si opponevano alla richiesta da parte della polizia di identificare coloro che stavano ricevendo delle cure lì nel pronto soccorso. Questa cosa mi è sembrata un utilizzo poi di quei mezzi abbastanza molto pericoloso, veramente pericoloso. Una cosa che vi volevo chiedere io a voi che siete stati lì, cioè la cosa che è più assurda, cioè di due pezzi da qui dal Media Center siamo riusciti a ottenere davvero poche informazioni. Il primo dello spezzone, diciamo, degli studenti che poi siamo riusciti a contattare e quindi sapere effettivamente dove erano andati, e sapevamo che ora stanno comunque tornando alla Sapienza, loro stanno contrattando questo percorso, insomma, quindi poi una volta arrivati alla Sapienza proveremo a ricontattarli. E l'altra parte che vi chiedo è la testa del corteo, cioè non abbiamo ben capito a un certo punto quale sia stata effettivamente la dinamica per la quale noi chiedevamo sì, ma a San Giovanni cosa c'è? No, scontri, sì, ma c'è un furgone, uno che dice al microfono qualcosa, no, non c'è più nessuno, e tu dici ma no, aspetta, non è che non c'è più nessuno, la testa del corteo è arrivata come da programma a San Giovanni, infatti c'erano i camion 3:30-4 forse, okay. Noi siamo adesso veramente l'orario preciso non ve lo so dire, però so solamente che quando noi siamo arrivati, quando io con gli altri operatori siamo arrivati nella piazza dopo la prima carica all'angolo di Fra Via Mazzoni, via Emanuele Filiberto e via Labicana, erano già presenti i camion, c'erano due camion nella piazza, nella parte alta della piazza, diciamo più a ridosso della Basilica, mentre nella parte bassa, dove c'è la strada di San Francesco e tutto quanto il piazzale prospiciente alle mura, così si dice, ecco, in quell'area, in quello spiasso, c'è stato il grosso della confrontazione apposta con questi cerchi cantartici e con un lancio massiccio di lacrimogeni. Però la cosa che ovviamente mi ha sorpreso è come le migliaia di persone che erano presenti sulla piazza di fatto non indietreggiassero in modo così evidente, o meglio alleggerivano quando c'erano queste pericolose minacce delle camionette, dei blindati, per poi però tornare indietro. Cioè questa presenza, questa consapevolezza, il fatto che fino a che veramente l'aria non divenisse irrespirabile, queste blindati arrivassero veramente a ridosso della parte più tranquilla, quella che stava continuando c'era la murga che ha continuato a ballare, a suonare, fino a che veramente non è diventata irrespirabile. Era abbastanza paradossale vedere la murga, la gente tranquilla, in fondo invece c'era questo carosello in corso. Ecco, questa manovra è durata circa due ore, cioè un'ora e mezzo, il tempo l'abbiamo un po' perso, da dire, però noi Facendole riprendere un po' avanti e indietro, facendo le riprese da quando era possibile, proprio per i gas, cioè, non sembrava non finisse mai, fino a che c'è stata una sorta di si è arretrati fino all'altezza della Scala Santa, passando un po' superiore, e lì hanno trovato difficoltà perché lo spazio si riduce, quindi anche a fare manovre gli stessi blindati hanno avuto delle difficoltà, già l'idrante si era incastrato, a un certo punto poi è riuscito a liberarsi da una posizione, e alla fine un blindato evidentemente si è bloccato, ha avuto sicuramente dei problemi meccanici che l'hanno fermato, e praticamente poi le persone che erano lì, dopo aver subito tutta questa pressione per diverse ore, sappiamo di alcuni feriti, adesso come dicevo capiremo anche, c'è stata una reazione. Investiti proprio da questa pratica di lanciare i blindati in mezzo alla folla, cioè. Assolutamente, cioè. In testa coda, in mezzo alla gente, cioè, prima o poi qualcuno viene investito per forza, cioè. Sì, ma anche perché la velocità veramente era molto elevata, parecchio elevata, non è che dici scansi le persone, no, facciamo delle manovre veramente pericolose, veramente pericoloso. Insomma, non è una cosa, è bastato vedere al Cairo recentemente, in tante altre parti, no? Però specialmente al Cairo ultimamente, quando c'è stata questa grossa manifestazione con i copti, eccetera, lì hanno fatto qualche un paio di dozzine di morti con questi mezzi che vanno a schiacciare le persone, quindi veramente sono stati e niente, poi quindi alla fine questo mezzo è stato dato alle fiamme evidentemente, o comunque ha cominciato a bruciare, e niente, a quel punto bene o male c'è stata invece la chiusura dalla parte dell'ospedale San Giovanni, via dell'Ambaradam, è salito un altro contingente delle forze dell'ordine che di fatto ha compresso questo gruppo che era rimasto nella parte alta della piazza, che poi è defluito a via Merulana riscendendo verso via Le Abicane, cioè comunque a San Giovanni in Laterano, insomma da una parte all'altra si è un po' diviso così. E questo qui poi si è disciolto in un rientro un po' così disordinato, apparentemente disordinato, che probabilmente si sta già riconfigurando nella città in altre forme. Ora piano piano, quando avremo altre informazioni, ovviamente potremo restituirle. È interessante da notare questa cosa del San Camillo. Sappiamo c'è adesso qualcuno che stava andando lì per ottenere qualche informazione più in diretta, speriamo di darla presto, però questa situazione è sicuramente scomoda. Un'altra cosa simpatica che invece noi che non eravamo lì in piazza ci teniamo anche a raccontarvi era il fatto che per quelli che erano i video che giravano qui al Media Center, ne abbiamo visti qualcuno e sicuramente quella era la parte un po' meno divertente. Però nel frattempo numerose sono state le dichiarazioni del nostro benamato sindaco, che quasi di continuo diceva noi ce la faremo, manterremo l'ordine in questa città che comunque non è bloccata, mentre nel frattempo le telefonate che ci arrivavano erano di vari spezzoni che dicevano no, noi stiamo andando verso Piramide, quindi sostanzialmente quello che ricevevamo noi era un'informazione generale di un pezzo sta qui, un pezzo sta lì e tutto il tratto in mezzo è bloccato, quindi da San Giovanni a Piramide oltre era tutto quanto chiaramente bloccato, e nel frattempo la reazione dei politici che era la più assurda. Chiaramente la dinamica era anche quella appositamente di creare i brutti e cattivi contro i bravi, buoni e colorati, insomma ci hanno provato e le varie testate giornalistiche ufficiose, chiaramente di cui ci fidiamo ben poco, infatti di notizie ne abbiamo dette ben poco, ma non hanno fatto altro che a un certo punto addirittura alcuni di questi avevano proprio la foto intera tagliata a metà con a destra palloncini e sorrisi, a sinistra mazze e spranghe, cioè era proprio il classico livello di... Però per questo era interessante anche capire dove era la testa di questo corteo per dire, cioè come è possibile, non è arrivato niente, cioè non è arrivata neanche a quanto pare una specie di comunicato finale di questo corteo, di come sia andata tra virgolette, per quanto sia ancora in corso, però gli organizzatori, quelli che si definivano organizzatori di questo corteo, non sappiamo bene che fine abbiano fatto in questo momento. Sinceramente questo è abbastanza... penso che siano un po' ritrasse. Adesso non ho seguito le dichiarazioni o quant'altro, però penso che si sia poi sciolta. Io ho visto che i camion principali, insomma, che avevano guidato un po' il corteo, si sono allontanati, hanno fatto manovra, si sono allontanati. Penso che di fatto sia stata disciolta. Però questo qui pure è qualcosa che non so dirvi, perché non ho notizie dirette su questo. Siamo rientrati da poco. È interessante comunque continuare a seguire magari quello che succede in diretta, e vediamo un attimo quello che ci riserva questa nottata, che secondo me, insomma, questa giornata apparentemente non è ancora finita. Appunto, cioè, al momento sappiamo che si sono barricati a Piazza Vittorio Emanuele. Questa è forse una voce di corridoio, però fondamentalmente. Guarda, noi quando stavamo tornando qua ci stavano lo spezzone di rifondazione che, e poi la FIOM li stava raggiungendo, l'abbiamo incrociati su Via dello Statuto. Dopodiché non so da due ore fa a questa parte come si sia evoluta la situazione. Immagino che persone che stavano a San Giovanni a respirare gas prima si siano ritirati in alto verso Piazza Vittorio e che magari lì abbiano continuato a sopportare cariche e a lanciare oggetti, non lo so. Fondamentalmente queste sono le voci che ci arrivano dagli ultimi 5 minuti. Che altro dire? Diciamo che siamo stati abbandonati qua nella postazione, ci hanno mollato il microfono in mano e sono evaporati praticamente. La giornata è stata dura per tutti. Però ecco, forse rientra. Comunque io manderei magari un intervallo, intanto anche perché il nostro intervento è già stato lungo e probabilmente noioso, quindi magari quando avremo notizie in più le daremo.